come assessore alle attività culturali, veramente a partecipare a questo nostro incontro, e a tutti i docenti e simpatizzanti, vero, del nostro istituto. Veramente mi felicito che ci si presenta di nuovo un'occasione per riaffermare il nostro interesse vivo e costante per il settore degli studi patristici, che fin dall'inizio abbiamo enunciato e messo in programma e che via via abbiamo cercato di coltivare attraverso tutti questi anni. Vero? Abbiamo anche veramente avuto l'adesione di personaggi insigni che ci hanno molto incoraggiati in questa direzione. Ricordo almeno i nomi del professor Quacquarelli, del professor Ceresa Castaldo, del professor Maltese, e soprattutto in tutti questi anni fedelissimo anche come docente del corso il professor Claudio Moreschini, che oggi è parte sostanziale dell'incontro che noi stiamo per fare, associandovi a questa opera lo stimolo costante del nostro segretario, il professor Giovanni Menestrina. Ecco, questo tanto per dire che costituisce un filo conduttore costante nella nostra attenzione, questo della cura per il mondo della produzione patristica, sia sotto il punto di vista teologico sia sotto il punto di vista letterario. Ricordo anche quelli che sono i nostri principali libri, le nostre principali pubblicazioni, anche perché non vorrei proprio che cadessero nel dimenticatoio. Abbiamo quel volume sui martiri anauniesi, uscito nel 1985 a seguito di un convegno, vero, diretto e presieduto dal professor Quacquarelli, che forse più di uno in seguito di tempo cercherà come cosa rara, anche perché lo smercio, la reperibilità di questi nostri volumi non è sempre a portata di mano, e bisogna che chi li adopera, chi presume di usarli, vero, in certo qual modo si faccia parte diligente. Dico tanto per dire questo sui martiri anauniesi, che contiene determinate considerazioni fondamentali anche sulle origini del cristianesimo nel Trentino, si trova già in fase di scadenza. Sapete che le case editrici a un certo punto eliminano i volumi non venduti, no? Per cui per evitare che poi magari qualcuno lo cerca come cosa rara in seguito di tempo, il Museo Diocesano ha assunto in questa fase di svendita per demolizione, vero, del resto dei volumi, un certo numero di copie. Lo dico perché potrebbe forse ancora servire questo fatto che presso il Museo Diocesano comunque un certo deposito ce l'abbiamo ancora. Ecco, poi segue, ed è totalmente, pienamente vitale ancora, il volume degli atti sulla biografia e agiografia nella letteratura cristiana antica e medievale, curato da Ceresa Castaldo. Il volume Gregorio Nazianzeno, teologo e scrittore, a cura del professor Moreschini e professor Menestrina. E ultimo, direi festeggiato anche del giorno, la traduzione dei testi religiosi, vero, che verrà oggi presentato, che contiene gli atti del convegno fatto nel 1993. Ecco, questo ricordo semplicemente per documentare ancora una volta come questo nostro interessamento, vero, cerca quanto possibile di nutrirsi e di crescere. Ma l'odierna circostanza, lasciatemelo dire, porta anche a festeggiare il battesimo di un'opera del tutto nuova nell'ambito, nell'orizzonte della patrologia italiana, cioè questo primo volume della patrologia italiana, vero? Della quale oggi verrà fatta esauriente presentazione, volume curato dal professor Claudio Moreschini e dal professor Norelli. Ecco, io mi felicito in particolare di questa realizzazione che costituisce una tappa significativa per la crescita degli studi patristici in tutto l'ambito della cultura italiana, perché ricordo che ancora insomma, il manuale di patrologia che era a nostra disposizione era il vecchio manuale, preziosissimo, bellissimo, ma ormai alquanto invecchiato in corso di tempo, di Altaner, no? Del quale una quindicina d'anni fa l'editrice Herder ha fatto bensì una edizione tedesca aggiornata, e lo ricordo perché il mio amico ormai nell'aldilà, Alfred Stüber, mi confidava le sue pene nella rielaborazione di questa edizione di Altaner, che per la tirannia dell'editore Herder, vero, doveva essere limitata nelle aggiunte bibliografiche e anche nelle modifiche, no? Si sentiva castigato in questa camicia di forza, vero, nel rielaborare l'edizione di Altaner, Alfred Stüber, che sarebbe stato certamente più che in grado di produrre lui una nuova patrologia, e ne sentiva anche fortemente il desiderio. Ecco, tutto questo è ciò che sul piano, sull'ambito germanico, che pur in questo ordine, in questa materia fa scuola, è andato succedendo. Che ora invece nell'ambito italiano nasca un manuale di storia della letteratura cristiana, che si presenta veramente di largo respiro e anche nella forma letteraria e nella forma editoriale splendido, ecco, lo giudico veramente una circostanza memorabile, e sono felice che nel nostro istituto possiamo in certo qual modo anche festeggiare questa circostanza e prendere fin d'ora la pubblicazione nella nostra doverosa attenzione. Ecco, con l'occasione devo spendere una parola di compiacimento all'editrice Morcelliana, che ecco, è quella che splendidamente ha edito adesso questo primo volume della patrologia di cui oggi parliamo, ma che per il nostro istituto ormai da parecchi anni, vero, ci è così vicina, abbiamo instaurato una collaborazione così intensa e anche così amorevole, diciamo pure, vero, di grande simpatia reciproca, ecco, che ha portato già alla produzione di ben 10 volumi presso l'editrice Morcelliana. Preciso che la pubblicazione di volumi dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento non presume sempre di editare i libri più geniali e più sublimi, vero, che nella rispettiva materia possono venire prodotti, ma invece rigorosamente si attiene alla edizione di stampati che sono nati o in qualche maniera sono elaborati, sono frutto del lavoro del nostro istituto stesso. Quindi sono testimonianza diretta della vita spirituale dell'istituto. Bene, in questo dico ben 10 volumi sono già usciti presso la editrice Morcelliana, 2 sono in corso di stampa, abbiamo un'intera linea di produzione, vero, da appoggiata a Brescia presso di loro. Sono ancora in dovere di leggere, di ricordare le adesioni dell'Arcivescovo di Trento a questo nostro incontro, del professor Giuseppe Beschin e del dottor Tarcisio Grandi, presidente della Giunta regionale, e del dottor Carlo Andreotti, presidente della Giunta provinciale, del resto qui degnamente rappresentato dall'assessore alle attività culturali. Ecco, detto questo, mi pare che posso passare la parola al dottor Minelli, vero, proprio grato, vero, della sua collaborazione. nel programma è detto l'avvocato Minelli ragioni i risultati di una collaborazione editoriale, ma i risultati e anche le ragioni le ha già dette il carissimo Monsignor Roger, del quale io voglio ricordare che da ben più di 30 anni che abbiamo conoscenza e che ha tenuto battesimo la storia della Chiesa del Bilmayer, ora uscita in 8a o 9a edizione, aumentata regolarmente, e che costituisce una delle glorie nel campo storiografico della nostra editrice. E io ho avuto il piacere di conoscere Monsignor Roger quando era un giovane studioso accanito traduttore dal tedesco, che ci ha procurato veramente in poco tempo 4 volumi tradotti in maniera encomiabile. Credo che le ragioni di una collaborazione cordiale nascano anche da questa nostra conoscenza personale, di cui sono grato a Monsignor Roger per tanti anni di averla mantenuta. Ma quello che è alla base anche di questo lavoro editoriale, che si è moltiplicato nel tempo con molte collane che la Morcelliana pubblica e con i volumi che quest'oggi presentiamo e che Monsignore giustamente ha detto è una festa dell'Istituto, e io dico è una festa della Morcelliana, perché è ben raro poter presentare 3 opere di questo calibro scientifico in, diciamo pure in un colpo solo. È una cosa per la quale noi siamo estremamente grati agli autori, ma volevo anche un po' raccontare al pubblico che mi sembra così attento il come nascono questi rapporti di collaborazione fra autori e editori. Io ho avuto la fortuna, parecchi anni fa, di frequentare il professor Mario Apollonio, che mise alla base di una sua teoria sugli studi teatrali. Tra l'altro, il professor Mario Apollonio fu il primo titolare in Italia di una cattedra di storia del teatro. Mise alla base di questi suoi studi il cosiddetto ternario drammaturgico, cioè il teatro consisteva in un testo, in un attore e in un pubblico che lo riceve. E parlando col professor Apollonio mi ricordo che dopo divagavamo e dicevamo c'è anche il ternario editoriale, perché c'è un testo, c'è l'editore e c'è il pubblico. Praticamente l'editore è come l'attore. Esce e esce sul palcoscenico dei librai e presenta le proprie opere. E naturalmente senza testo non può esserci l'editore, ma non può esserci l'editore, l'autore arrivare al pubblico se non c'è questo tramite. Questo tramite che a me sembra che diventa tanto più vitale quanto più è legato anche a rapporti di stima, di frequenza. E qui a Trento e con gli autori di Trento c'è proprio questa corrente di reciproca collaborazione, di reciproca stima, di voglia di lavorare insieme, che secondo me costituisce un fatto di grande pregio culturale e che dà dei risultati che tutti abbiamo davanti. Perciò, caro Don Roger, questa è una festa del lavoro editoriale. È una festa di chi fa i libri, di chi li scrive, di chi li pubblica, e vorremmo sperare del grande pubblico che li accoglie, perché i libri sono fatti non per stare negli scaffali e non per finire, come ha detto prima Monsignore, presso gli archivi della curia in attesa di vendite straordinarie. Io dico queste cose in tono così non accademico proprio perché credo che dobbiamo tutti fare uno sforzo per vedere dietro questi libri che ci sono degli uomini, ci sono degli autori, ci sono degli editori, ci sono i tipografi. Il libro è il frutto di un cumulo di lavoro. Dietro un libro c'è una grande quantità di lavoro. e credo che sia necessario che tutti ne siano consci, perché si fa presto, delle volte ci sono frettolosi recensori che si permettono frettolosi giudizi, ignorando cosa ci sta dietro a un libro. Noi che lo sappiamo vorremmo anche che sia riconosciuto, e il primo riconoscimento che io devo dare lo devo dare proprio agli autori di questi libri. Devo ringraziarli per la loro applicazione e il loro studio. Sono qui con noi, sono il professor Norelli, il professor... Pensa che devo leggere il tuo nome. Il Moreschini, il professor Menestrina. Ah, poi qui a Trento ci sono i giovani, caro, ci sono Zucal, ci sono Nicoletti che ci aiutano tanto. Praticamente qui a Trento abbiamo una seconda piccola patria. Noi ci troviamo a casa nostra, lavoriamo con molto amore, con molto intensità, e vorrei solo che con oggi mettessimo le basi per sempre più sviluppare questa nostra collaborazione. Grazie. Bene. Posso pregare l'assessore provinciale alla cultura di rivolgersi saluto ai presenti? Grazie. Venga, venga, assessore, qui. Se viene per un attimo. Sì, grazie. Adesso la prego, prego. In troppi. Ringrazio sicuramente, non può mancare il saluto dell'assessore provinciale alla cultura a questo momento così importante e significativo. Ho accettato infatti con piacere e interesse a intervenire a questa conferenza per tante ragioni, ma tra le altre per due ragioni in modo particolare. Il primo, perché ritengo che dentro l'Istituto Trentino di Cultura il polo umanistico debba avere maggiore spazio e riconoscimento. A ciò credo si debba aggiungere che per il Trentino e la sua cultura, ne parlavamo proprio anche di recente con Monsignor Roger, i temi della religiosità costituiscano un terreno di straordinaria importanza, sia in termini storici. La storia del Trentino è stata costruita anche fortemente da questa dimensione religiosa, sia in termini anche di prospettiva futura. Ne parlavamo proprio di recente, affrontando insieme il tema di un recupero dell'identità del Trentino. Ecco, la seconda ragione è proprio perché intendo apprezzare e testimoniare con un mio personale apprezzamento nei confronti del lavoro dell'Istituto di Scienze Religiose, del suo direttore Monsignor Roger e di tutti gli studiosi che con lui collaborano, proprio per il lavoro, l'attività precisa, puntuale, di grande rilievo, di grande respiro che da anni stanno portando avanti. La Giunta provinciale, come voi ben sapete, ha da pochi giorni rinnovato gli organi dell'Istituto Trentino di Cultura. Ed è stata questa l'occasione anche per ragionare sul ruolo dell'Istituto Trentino di Cultura e della sua impostazione programmatica. E in questa fase delicata, veramente particolare, difficile per l'autonomia e per la comunità trentina, credo che un punto di riferimento costante debba essere la cultura e la ricerca. E per questo diventa insostituibile la funzione primaria dell'Istituto Trentino di Cultura, proprio come strumento di saldatura tra il radicamento locale da una parte, ma anche l'apertura ad un sistema di relazioni sempre più allargato tra la cultura trentina da una parte e la cultura universale dall'altra. La cultura non può essere ristretta entro mura, anche se deve essere che si deve partire da una tradizione, da una storia, che poi però deve spalancarsi e sapersi confrontare. Del resto il Trentino, noi lo sappiamo bene, è sempre stato una terra di incontro e di confronto, non solo di passaggio, ma proprio di incontro e di confronto tra culture, tra le culture dell'area mediterranea e quelle della Mitteleuropa. E io credo che questa connotazione la dobbiamo sempre mantenere, dobbiamo sempre averla presente, proprio per non correre il rischio da una parte di rinchiuderci in un chiuso localismo che renderebbe la nostra cultura asfittica e non ci permetterebbe di guardare all'Europa essendo quel ponte che sempre siamo stati. Ecco, entrando poi più nello specifico degli argomenti proposti da questa conferenza, ho molto apprezzato l'opera curata dai professori Moreschini e Menestrina, dedicata alla traduzione dei testi religiosi. Ecco, sono personalmente convinta che sia indispensabile riservare sempre maggiore attenzione alla documentazione e alla divulgazione del lavoro scientifico, e questo rende condivisibile la scelta fatta proprio dall'Istituto Trentino, dall'Istituto di Scienze Religiose, di aver voluto pubblicare gli atti del convegno organizzato dall'Istituto stesso nel 1993, proprio perché la parola non si perda nel tempo, ma resti anche come testimonianza, porti anche frutti ulteriori rispetto al momento del convegno. Ecco, poi il programma, vedo dal programma che questa, anche dall'illustrazione che ne ha fatto Monsignor Roger prima, che questa occasione è stata colta per presentare anche altre due pubblicazioni, che pur non essendo un prodotto diretto del lavoro di ricerca dell'Istituto, con quest'ultimo hanno però dei legami profondi. È il discorso, il testo della letteratura cristiana antica greca e latina del professor Moreschini e Norelli, e dell'altro testo prima citato, tra il Nuovo Testamento e i padri, del professor Menestrina. Ecco, so tra l'altro che il professor Moreschini è docente presso il corso superiore di scienze religiose e che il professor Menestrina è segretario dello stesso istituto. Questo lo voglio sottolineare perché la produzione di oggi sta a dimostrare che chi collabora con l'Istituto di Scienze Religiose, anche in vari modi, in vari ruoli, trova stimoli, trova occasioni per impegnarsi scientificamente anche a livello personale, contribuendo quindi in modo significativo anche alla crescita della conoscenza in quest'ambito importante per la ricerca, ma anche per la nostra vita. Del resto c'è una lunga conoscenza di anni con il professor Menestrina e c'è un lavoro comune anche all'interno degli studi rosminiani, che vedranno, no, tra poco anche produrre momenti pubblici significativi ed importanti. Ecco, concludo con un cenno di apprezzamento per la scelta di aver voluto come chiudere, arricchire anche la conferenza odierna con una riflessione importante come quella che ci sarà proposta dal professor Norelli e che entrerà nel merito di una questione che interessa trasversalmente tutte e tre le pubblicazioni. Ecco, credo sia da condividere proprio l'aver voluto dare a questa giornata una struttura organica, presentando diverse angolature di ricerca legate non solo da ragioni tematiche, ma anche da riflessioni ed approfondimenti che ne esaltano sia i collegamenti che le connessioni. Io ringrazio proprio l'Istituto di Scienze Religiose, Monsignor Roger, per questo lavoro che viene portato avanti veramente con impegno e con passione, che credo stia dando frutti non solo a livello scientifico, quindi non solo per un'elite, e che mi auguro arrivino sempre di più, no? Come dire, a interagire con il territorio, con la gente, perché è importante confrontarsi sulle tematiche che l'Istituto di Scienze Religiose spesso propone e che entrano, che stasera, no, ci fanno avvicinare a tematiche particolari attraverso la presentazione di libri, ma che abbiamo visto arrivano ad interrogarsi. Ricordo i recenti momenti sia nel passato che attuali sul discorso della bioetica, delle biotecnologie, eccetera, che arrivano a fare riflessioni importanti anche su alcune tematiche di grandissima attualità e che ognuno di noi dovrebbe porsi come momento di riflessione personale e per noi amministratori anche come momento di riflessione che poi interrogano anche le politiche che vengono messe in campo per tutta la nostra comunità. Quindi grazie di questo e auguri per questa sera.